La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, la Rosa Purpurea, all'ultima puntata a cavallo fra la fine di luglio e l'inizio di agosto, e quindi entriamo nel pieno dell'estate, quasi del fermo biologico cinematografico. Pochissime uscite, un piccolo film indipendente e giovanile italiano di cui parleremo, e allora spazio a tante altre tematiche, per esempio il Festival di Locarno, per esempio l'inizio di una carrellata che ci accompagnerà per quasi tutto il mese di agosto sui film migliori di questa stagione 2009-2010 che si va chiudendo. Come sempre però abbiamo riassunto tutte le tematiche della nostra puntata nei titoli di testa. Al via la 63esima edizione del Festival di Locarno. Viaggio fra le novità del concorso, la retrospettiva dei film di Ernst Lubitsch e la magia dei film in Piazza Grande nell'intervista con il neo direttore Olivier Perre. Retired Extremely Dangerous, in una parola, Red. È il nuovo film d'azione con Bruce Willis e John Malkovich in uscita nei cinema americani. Le anticipazioni nella nostra rubrica Trailer USA. Vita giovanile nell'Aquila distrutta dal terremoto. È la città invisibile, l'unica novità al cinema di questo fine settimana, per raccontare la rinascita da un dramma in forma di commedia. I più bei film della stagione cinematografica che si sta chiudendo. Riviviamoli coi commenti e le interviste della Rosa Purpurea. Cominciamo oggi con Baria, Basta che funzioni e Bastardi senza gloria. E allora, questi temi della nostra puntata, comunque ricca, nonostante, come dicevo, si sfiori il record minimo storico, un solo film nuovo con una distribuzione nazionale, seppure limitata, nei cinema italiani. È La città invisibile. Noi vogliamo cominciare ad entrare nel clima ascoltando questo frammento della trailer. C'era una volta una città, e quella città adesso non c'è più. Ma i suoi abitanti? Senti, riesci a organizzarmi un concerto per venerdì sera all'Aquila? Mi piacerebbe vedervi suonare dal vivo. Un concerto, venerdì? Perfetto, certo. Scusa, che succede? Si ricomincia. Venerdì, ore 9, esame di anatomia patologica. Venerdì dopo l'esame mio padre mi porta via. Noi venerdì come facciamo? E comunque, Lucilla, dentro il coro sta aspettando solo te, eh? E ricordati la festa della perdonanza, venerdì. E allora, avete sentito un frammento del trailer della Città Invisibile, dicevamo opera prima per il giovane Giuseppe Tandoi, un film che ancora una volta posa il suo sguardo sulla città dell'Aquila dopo il terremoto d'Abruzzo, e lo fa con i giovani e per i giovani, dal loro punto di vista, per vedere cosa è cambiato e cosa ancora vive in quella città. Noi ne parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, hai detto bene, è un film, se vediamo, uno dei tanti film che parla dell'Aquila in questi mesi al cinema, ma un film che ha una sua unicità, è il primo film di fiction che parla di quello che è successo dopo quel maledetto 6 aprile del 2009, quel terremoto che ha terremotato non solo una città stupenda, ma anche la mente di molti, oltre ad aver provocato 300 vittime. Come dicono molti aquilani, le vere vittime sono quelli che sono rimasti, che sono sopravvissuti. E qui si racconta una favola che avviene nella città invisibile. C'è un narratore che è Garrone, che la guarda dall'alto di una follia molto lucida, e dall'alto proprio di un albero. Lui si è sistemato su un albero, una sua forma di protesta, e vede questi cazzi, un gruppo musicale rock che incontra un coro religioso. Il leader di questo gruppo incontra una ragazza molto pia, molto cattolica, che insomma conduce questo coro, e entrambi arrivano al cuore l'uno dell'altro. Un film molto ingenuo, questo di Tandoi, fin troppo se vogliamo, molto naif. Potrebbe far storcere, anzi probabilmente farà storcere il naso a molti critici, però c'è da dire che ha proprio una cifra stilistica che vuole essere tale, vuole essere una favola. Forse ci si vuole liberare dall'enorme pesantezza di una tragedia del genere attraverso un racconto di un amore poco più che adolescenziale, attraverso una serie di storie collaterali che inevitabilmente vanno a finire bene, forse perché il finale brutto c'è già stato, purtroppo, ce l'hanno già raccontato. Certo, non è un capolavoro, ma forse il merito di ritornare sull'Aquila senza l'aspetto di tragicità, di pesantezza che è tornato in questi mesi, e forse dando un barlume di speranza da far vedere forse proprio nelle tendopoli o comunque in tutti quegli alberghi che hanno ripreso i sopravvissuti. È un film che secondo me ha questo merito, insomma, un merito più sociale che cinematografico. In questi sono quei pochi film in cui il valore artistico forse va valutato con minore severità, perché c'è dell'altro, c'è qualcosa di più importante. Grazie Boris, allora questo era La città invisibile, a risentirci. A risentirci, caro Franco. E questo era quindi La città invisibile, abbiamo detto cinema italiano indipendente, e noi proprio in questo senso vogliamo cominciare un percorso, un altro dei percorsi estivi della Rosa Purpurea, quello che ci porterà a visitare 4 set di film italiani in produzione proprio durante queste afose giornate, e sono film che ovviamente vedremo poi nella prossima stagione cinematografica sul grande schermo. Abbiamo affidato questo compito gradevole alla nostra Chiara Pizzimenti, che appunto ha raccolto alcune suggestioni su 4 set diversi. Cominciamo oggi con un film che si intitola Giochi d'estate, è stato ambientato in un campeggio di Marina di Grosseto, quindi siamo in Maremma, siamo in Toscana, e lo dirige il regista italo-svizzero Rolando Colla. Ma ci racconta tutto Chiara Pizzimenti. Due dodicenni in un campeggio sulla costa toscana, l'estate, il mare, ma restano per i ragazzi i problemi di una vita difficile. Giochi d'estate, ideato, sceneggiato e diretto da Rolando Colla, svizzero di origini italiane, già autore di Una vita alla rovescio, racconta una vacanza destinata a cambiare l'esistenza dei ragazzi. Il regista però avverte, non si tratta di un romanzo di formazione sul grande schermo. È una storia girata in modo abbastanza libero, tutto la macchina a spalla, tutto... girato con una, diciamo, una certa libertà anche di come raccontiamo questa storia. Non ci sarà un atteggiamento didattico, diciamo, convenzionale. Sarà un film abbastanza libero. Lo sento adesso che lo stiamo girando da 4 settimane, sento abbastanza libero, non legato a nessuna forma convenzionale di come si racconta una storia. I protagonisti sono Nick, l'esordiente Armando Condolucci, e Marie, Fiorella Campanellà, già nello Scafandro e la farfalla di Julian Schnabel. Lei è con la madre e la zia in un bungalow, in quello vicino il ragazzo con la famiglia. Una famiglia in crisi, il padre violento, la moglie pronta a lasciarlo. Secondo Colla, non poteva essere un bambino da sfilata a interpretarlo. La storia che si racconta è la storia di una famiglia, diciamo, che ha delle difficoltà, c'è un padre che scappa, che ha delle perdite di controllo, di violenza. Il bambino doveva essere autentico, vero, non una cosa già deformata da, non so, esperienze di telefilm, fiction, pubblicità. Cercavamo dei bambini che avessero una certa esperienza di vita, che avessero forse nello sguardo, nell'atteggiamento, quel qualcosa in più che hai scoperto, ecco. Netto il contrasto tra l'atmosfera estiva e vacanziera del campeggio e la violenza che pervade l'esistenza dei personaggi, a fare da sfondo la Maremma grossetana e i suoi lati più selvaggi. Ancora il regista. La storia era ambientata in un campeggio ed era ancora abbastanza aperto dove girarla. E poi ho visto un libro di un fotografo cieco che ha fatto un libro di fotografie in bianco e nero qui sulla Maremma, che è molto bello, si chiama Il Cerchio. E niente, mi ha ispirato il paesaggio, mi sembrava adeguato alla storia, perché ha mantenuto qualcosa di arcaico, di vero. Non ancora troppo turistico, ci sono ancora dei posti molto veri, arcaici. Seconda parte della Rosa Purpurea, e parliamo di un festival perché sta per cominciare il classico appuntamento di inizio agosto, che si è collocato ormai come un appuntamento irrinunciabile per tutti i cinefili, non solo svizzeri ma di tutta Europa, di tutto il nord Italia. Per esempio stiamo parlando del Festival di Locarno, dal 4 al 14 di agosto, proprio nella splendida località sul Lago Maggiore. il Festival di Locarno, che quest'anno ha cambiato direttore. È arrivato a guidarlo il 38enne Olivier Per, ex programmatore della Cinémathèque Française, ex guida capo della Quinzaine des Réalisateurs, prestigiosa sezione collaterale del Festival di Cannes. E insomma, è arrivato il momento di prendere in mano un festival di grandissima tradizione come quello di Locarno, molto cinefilo, molto giovane, molto legato al cinema nuovo in un certo senso. E come tutti quelli che arrivano in un nuovo posto, in una nuova casa, beh, ovviamente portano dei cambiamenti. E allora noi siamo in collegamento con Olivier Per, che saluto, lo raggiungiamo su un treno dove sta viaggiando. Olivier, quali sono i cambiamenti che hai apportato al tuo Festival di Locarno? Ho voluto ritornare alle radici del festival, che fu sempre un festival della scoperta, della gioventù, dei nuovi tipi di cinema. E dunque la cosa più importante che ho fatto è la riduzione dei numeri di film, per concentrarsi piuttosto sulla qualità che la quantità, e fare un festival che voglio essere un appuntamento indimenticabile con la gente che fa il cinema e che ama il cinema di oggi e di domani. Ecco, il Festival di Locarno ha una cosa che tutti gli altri festival non hanno, che è Piazza Grande. Vedere un film in Piazza Grande, per chi non lo avesse mai fatto, è un'esperienza unica. 8-9 mila persone tutte le sere davanti a uno schermo che è uno dei più grandi che si siano mai visti, in una piazza stupenda. Insomma, è un'esperienza in sé. Quanto pesa Piazza Grande in questa edizione targata Olivier per il Festival di Locarno, e che tipo di film si vedono quest'anno in Piazza Grande? È vero che è un posto unico e magico nel mondo del cinema, dei festival di cinema. Io ho voluto portare sulla piazza un cinema di qualità, però un cinema molto aperto al grande pubblico, perché il livello, lo spazio della piazza è veramente un spazio per il grande pubblico, un cinema popolare. Dunque direi che sarà un cinema di qualità e popolare. Dunque si può essere cinema d'autore o film di genere, e ci sarà tante commedie, fantascienza, giallo, con tanti film molto diversi, e il film d'apertura o il film di nuovo film di Benoît Jacquot, che è un grande autore del cinema europeano, però gli altri sono quasi tutti nuovi registi che hanno provato delle cose originali, sorprendenti con il cinema di genere. Ecco, retrospettiva invece dedicata a un altro maestro del tocco magico, e questo dà anche una bella lettura di questo Locarno 2010, ovvero cinema di ricerca, di scoperta, di qualità nei concorsi, e poi però la retrospettiva su Ernst Lubitsch, il famoso Lubitsch touch, no? La capacità di vestire con eleganza e brillantezza delle commedie dalle sceneggiature, dalle storie straordinarie. Come avete scelto di dedicare a Lubitsch la retrospettiva di quest'anno? È vero che Locarno è il festival di tutto il cinema, il cinema di domani, il cinema di oggi e anche il cinema del passato, della storia del cinema, perché Lubitsch è un grande maestro del cinema e soprattutto un modello per tutti che vogliono fare la commedia al cinema, e penso che è importante vedere il cinema di Lubitsch al presente. Dunque portiamo registi, critici per parlare di Lubitsch, per introdurre i film di Lubitsch, e dunque sarà una bella riscoperta per i giovani e riscoperta per i cinefili. Senti, il futuro della Festival di Locarno e in generale il futuro dei festival, perché noi abbiamo Cannes, che è una grande macchina da guerra cinematografica mediatica, abbiamo Venezia con la sua storia, la sua tradizione, abbiamo Berlino, il festival della grande città invernale e metropolitana, e Locarno col suo posizionamento. I festival in sé che ruolo hanno ancora per il cinema, che capacità hanno di fare da volano alla cultura cinematografica? Sono in crisi, non lo sono? Cosa ti aspetti per il futuro anche del tuo festival? Beh, è vero che ci sono due cose, è vero che c'è una crisi del cinema, una crisi economica e soprattutto per il cinema dei studio, dei majors americani, è una periodo molto difficile, ma penso che sul piano artistico viviamo una periodo veramente eccitante, interessante, e per questo che Locarno può ridiventare il luogo dove tutti questi giovani registi di tutto il mondo si ritrovano, mostriamo i film e dunque sarà una finestra sul nuovo cinema d'autore indipendente, che è vero un cinema senza, con pochi soldi e con piccoli budget, però che inventano una nuova, un nuovo modo di fare, di pensare, di produrre il cinema, e questo che mi interessa molto questi ultimi anni, con i registi che abbiamo scoperti negli ultimi anni e anche gli altri nuovi che possiamo vedere quest'anno a Locarno e speriamo anche gli altri anni. Senti, quello che forse Locarno non ha mai cercato, probabilmente proprio anche per la sua austera tradizione di festival cinefilo, è stata un po' di glamour, un po' di paillette, non c'è una Monte de Marche, non c'è un tapis rouge. Ci stanno queste cose a Locarno? Cioè, si potrebbe inventare una serata magari meno in jeans di quello che è invece lo spirito vero del festival, e non dico portare della mondanità, però portare quel po' di star system che magari fa bene a un festival. No, sono d'accordo, penso che non c'è contraddizione tra il fatto di mostrare il cinema indipendente, il cinema giovane e portare glamour e attrezzi e attori, perché questi attori della nuova generazione, anche loro fanno dei film con i nuovi autori indipendenti. Dunque io penso che Locarno ha questa reputazione di essere un po' troppo austero, come lei dice, sono d'accordo. Penso che quest'anno sarà un festival abbastanza sexy e giovane. Facciamo un omaggio a Chiara Mastroianni, che è una bellissima diva, giovane attrezza del nuovo cinema d'autore francese, figlia di Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni, e facciamo un omaggio al comico attore americano John C. Reilly, che ha lavorato con Scorsese e Paul Thomas Anderson. Dunque penso che la cosa più bella a Locarno è portare una nuova generazione di attori, di registi, e senza dimenticare la parte sexy, glamour e divertente del cinema. Perfetto, e allora insomma un festival di Locarno che si rinnova, cambia pelle anche se la pelle rimane leopardata, perché è sempre importante il festival di Locarno, lo ricordiamo a chi non dovesse saperlo, insomma si premia con il pardo d'oro, e ha questa bellissima cosa che quando si arriva in questa splendida cittadina che è Locarno sul lago, tutto diventa leopardato durante il periodo del festival, e questa è una cosa molto divertente. Grazie a Olivier Per, direttore del Festival di Locarno. Grazie mille, arrivederci. E allora questo per quanto riguarda il Festival di Locarno, lo ricordo ancora, fino al 14 di agosto a partire dal 4. A questo punto noi però dalla Svizzera ci spostiamo agli Stati Uniti, perché è arrivato il momento di raccontarvi le novità sui grandi schermi americani, l'appuntamento con la nostra vetrina Trailer USA. Oggi vi parliamo di un film che si intitola Red, un film che vedremo in autunno, che vanta un cast d'eccezione con Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman, Helen Mirren, davvero un cast tutte stelle. Un film Red, dove Red sta per l'acronimo di Retired Extremely Dangerous, e qui già capiamo che insomma un po' di movimento nel film c'è. E allora noi chiediamo di raccontarci tutto, come sempre, alla nostra Micaela Bellisario. Sì, ciao Franco. Come già detto, Red significa, tradotto letteralmente in italiano, pensionati estremamente pericolosi. La storia è questa: un poliziotto in borghese della CIA, ormai in pensione appunto, Frank Moses, interpretato da Bruce Willis, è costretto a tornare in azione quando un assassino inizia a perseguitare lui e la sua fidanzata, ovviamente giovane, carina, bellissima. per difendersi, anzi non potendosi ormai più difendere da solo perché lo stanno minacciando da tutte le parti, Moses decide di ricomporre la sua vecchia squadra della CIA, composta appunto da ex pensionati, da persone che comunque non hanno perso il vizio di uccidere. Questa squadra è composta da Morgan Freeman, Joe, John Malkovich, Marvin e Ellen Mirren, Victoria. E questo sarà il suo ultimo disperato tentativo di sopravvivenza. Sentiamo quindi il suo incontro con Victoria, Ellen Mirren, che gli confida di non riuscire a smettere con il mestiere. Why are you trying to kill me? Why would I be trying to kill you? Because the last time we met, I tried to kill you. That was a long time ago. Some people hold on to things like that. Insomma, Franco, non sarà molto difficile ricomporre il vecchio gruppo per Bruce Willis, che in questo genere di film ritrova se stesso. Il problema è che i segreti di cui sono a conoscenza i componenti del gruppo li hanno appena trasformati nei bersagli numero uno della CIA. Incastrati per omicidio, devono lavorare in squadra e usare tutta la loro esperienza per sopravvivere. Nel frattempo tornano a galla anche vecchi attriti tra colleghi. In questo passo del trailer sentirete quindi lo scontro tra Willis e Malkovich. This place looks fantastic, Victoria. How'd you like the transition? I love it here. I love the baking. I love the flower arranging. They're retirees. You can't just flip a switch and become someone else. What are we supposed to do? I do take the odd contract on the side. I just can't stop. E allora Red uscirà negli Stati Uniti il 15 ottobre, lo aspettiamo più in là anche in Italia. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana. Ed eccoci di nuovo insieme, La Rosa Purpurea in questa versione estiva, di questa estate 2010, vi propone una corsa nel giro di 4 settimane. Una corsa a rivivere insieme quelle che sono state le emozioni dei film più belli, più interessanti, più attesi, più sorprendenti di questa stagione cinematografica che si va concludendo. Se facciamo cominciare l'anno cinematografico con l'agosto 2009 e lo facciamo terminare proprio con la fine di luglio 2010, eccoci di fronte a una stagione che si è praticamente compiuta. È stata una stagione che ha riportato molta gente al cinema, ci sono state diverse polemiche, tematiche aperte, ne abbiamo appena trattate anche alcune, ma quel che conta è poi vedere quali film ci rimangono fra le dita nel momento in cui andiamo a tirarne su una dozzina. Abbiamo voluto proporvi 3 film per puntata per rivisitarli insieme. Tra l'altro sono tutti anche un po' consigli per la visione domestica, perché si tratta di film che ormai sono tutti usciti in home video e quindi chissà, qualcuno magari potrà anche provare a recuperarli se non li aveva già visti al cinema. Il nostro viaggio cronologico comincia proprio con il settembre dello scorso anno. All'inizio del mese di settembre, Mostra del Cinema di Venezia, l'onore della grande ouverture è dedicato al nuovo film di Giuseppe Tornatore, Baria. Tornatore che rimane e ritorna nella sua Sicilia, in quelle atmosfere, in quei climi che gli sono tanto cari, con un film che convince davvero tutti. Barbara Righini lo aveva raccontato così. Peppe, io sogno tua pace. E di campagna a campagna. Ne vediamo a casa. La fuetina di Peppino e Mannina è questo uno dei momenti più commoventi di Baria, nuovo film di Giuseppe Tornatore, colossal italiano da 25 milioni di euro. E Peppino e Mannina, interpretati dagli sconosciuti fino a qualche settimana fa, Francesco Scianna e Margaret Madè, sono al centro della storia raccontata dal regista siciliano che attraversa 3 generazioni, a partire dal padre di Peppino, il pastore Cicco, fino ai numerosi figli del protagonista. Lotte, aspirazioni personali e politiche, illusioni, utopie, speranze, sullo sfondo una miriade di personaggi che per pochi minuti sono capaci di rubare la scena ai protagonisti e la storia nazionale con il fascismo, la guerra, l'arrivo degli americani. Excuse me. Do you have onions? Che dici? Onion salad. Che dici insalata? All right, baby, insalata, but with onions. Do you understand me? You chop it, you cry. Ah, si puzza. Mamma, ora si puzza. Si pura. Nel Nel dopoguerra Peppino si innamora della politica ed è attraverso il suo occhio di militante del Partito Comunista che si compone il complesso affresco dipinto da Tornatore. Quale dici tu? Il mio consigliere Bartolotta, prego. È mai possibile che ci avete sempre da recriminare, eh? Non c'è giorno che non fate manifesto contro il consigliere X, l'assessore Y. La democrazia è bella per chi si può parlare. Voi ci state rovinando un paese. E noi abbiamo il dovere di denunciarla a voce alta. Ma no, futtenna mia. Non ricordo attacchi contro la sua persona. E io che stavo dicendo? Ma pigliato con tutti, c'hanno con me. E deve credere a Torre Nuova. Mi sono ridotto, e nel mio partito, un conto niente. Imponente nel quale si rischia di perdersi, tutto parlato in dialetto stretto. La maestria del regista nella composizione della scena è evidente in ogni inquadratura e quasi l'immagine sovrasta la storia. L'impresa era mastodontica, a tratti si resta ammirati, ma più spesso il risultato è frastornante. Giuseppe Tornatore ha definito Baria il suo film più personale. Sentiamo perché. Quando io dico che è il mio film più personale, intendo dire, mi riferisco a un rapporto molto più profondo del semplice rapporto di riproduzione di fatti accaduti. Non è questa la linea. Talvolta sì, ci sono echi, personaggi che ho realmente vissuto, ma il racconto si muove su un doppio binario, che è quello della trasfigurazione di esperienze realmente vissute e l'immaginazione di esperienze non vissute raccontate nella verosimiglianza del vissuto. Questo era Giuseppe Tornatore che raccontava al microfono di Barbara Righini proprio alla Mostra del Cinema di Venezia il suo Baria, che ha incassato poi più di 10 milioni di euro, un incasso davvero straordinario che poi ha convinto a portare Baria a rappresentare l'Italia agli Oscar, e poi le cose non sono andate purtroppo bene come potevamo sperare. Il viaggio nostro continua perché qualche settimana dopo arriva nelle sale cinematografiche italiane il nuovo film di Woody Allen. L'arrivo di un film di Woody Allen è sempre un momento molto atteso, perché ovviamente il maestro newyorkese ci ha sempre deliziato anche negli ultimi tempi con film di grande asciuttezza, di grande particolarità, ma in questo caso davvero si è superato con questo Basta che funzioni, Whatever Works, dove non recita ormai, come ormai fa spesso, in prima persona, ma ha quasi promosso un alter ego che sembra lui, nel quale vediamo le sue idiosincrasie, il suo modo di vivere la vita e di filosofeggiare sulla società moderna. Avevamo raccontato Basta che funzioni così nella puntata del 19 settembre. Sentite, ve lo dico subito, ok? Io non sono un tipo simpatico. Scatto matto, stupida cimice. Ehi! Hey! Mi hanno preso in considerazione per il Nobel per la fisica. Non l'ho ottenuto. Quell'uomo parla da solo. Su, vieni, Justin. Questo non è il miglior film dell'anno. Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, fatevi fare un massaggio ai piedi. E questo era Larry David, protagonista di Whatever Works, Basta che funzioni, il ritorno di Woody Allen a New York come set cinematografico. Il personaggio che avete sentito, dice, non sono un simpatico, e per questo ci sta simpatico, è Boris Yelnikov, un vecchio acido lasciato dalla moglie, ipocondriaco, convinto di essere un genio, e forse magari lo è anche, solo perché ha sfiorato una candidatura al Nobel per la fisica. Vive da semi indigente in un vecchio appartamento di Manhattan, ma una sera trova per strada Melody, dorme letteralmente fra i cartoni, è una bella e giovane ragazza del sud che gli fa subito una certa tenerezza. Io sono un uomo con un'ampia visione del mondo, sono circondato da microbi. Scusi, signore. Ehi, ma mio Dio, mi ha spaventato. Mi aiuta a comprare qualcosa da mangiare? Non porto mai soldi, via via via. Quanti anni hai? Ne ho 21. Se tu hai 21 anni, io gioco nei Yankees. Lei è un atleta professionista, così zoppo com'è. Oh, signore. Ecco, Melody non spicca certo per cultura e perspicacia, come avete sentito, ma ha dentro una sua forza vitale che sembra far breccia nella corazza del vecchio misantropo. Il film procede veloce, anche nei tempi narrativi. Melody e Boris finiscono con lo sposarsi. In un certo senso la ragazza gli salva la vita. Ma un altro giorno, al campanello di casa Yelnikov, suonano la madre e il padre di Melody e la frittata è fatta. Mamma? Melody Santen, vivi come un povero mezzadro. Ho detto signore, dammi un segno, basta col silenzio, io non sopporto più altra infelicità.

Ed eccoci qua ancora insieme, la quarta parte della Rosa Purpurea, dopo aver analizzato il meglio che è stato proiettato sul grande schermo durante questa stagione. Andiamo a prendere il meglio da quello che propone invece il piccolo schermo, con il collegamento con la redazione del settimanale Film TV, che come sempre ci segnala un film da vedere, rivedere, registrare in chiaro e gratuitamente, ovviamente, nel palinsesto della prossima settimana televisiva. E oggi la scelta è caduta non su un film, ma su un'intera saga, ma ci racconta tutto Sara Sagrati. Ciao Sara. Buongiorno Franco, e che la forza sia con te e con tutti i tuoi ascoltatori. Questo perché quest'estate Italia 1 ha deciso di riproporre tutti e sei gli episodi della saga di Guerre Stellari, cominciando da domenica 1 agosto alle 21:10, quindi in prima serata, con il primo mitico Guerre Stellari. Per tre domeniche di seguito rivedremo la serie classica, quindi episodio 4, 5, 6, mentre in altri giorni della settimana andranno in onda i prequel fatti dopo da Lucas. Cosa dire di Guerre Stellari? Si può dire ben poco, solo che è assolutamente uno dei grandi cult movie della storia del cinema. Persone di tutto il mondo dicono di aver cambiato la propria vita grazie a questo film, migliaia di bambini, insomma, all'epoca quando uscì si innamorarono delle avventure di Luke Skywalker, Han Solo e la principessa Leia. L'unica cosa che possiamo aggiungere, magari una nota leggermente negativa, anche se per alcuni non è così, è che il film ormai è visibile, quindi fruibile dalle nuove generazioni solo nella nuova edizione rimasterizzata, che è l'ultima che Lucas ha fatto uscire nei cinema prima dei prequel, episodio 1, 2 e 3, e quindi le nuove generazioni non potranno usufruire, insomma, annusare quello spirito più pionieristico che era l'edizione originale della fine degli anni 70. Questo non toglie niente al fascino del film, da assolutamente godere se lo si è amato e si è cresciuti insieme a lui, e da riscoprire invece per i più giovani che magari si sono appassionati ad altre saghe come Matrix o Il Signore degli Anelli e ancora non hanno avuto la gioia di vivere le avventure avvenute tanto tempo fa in una galassia lontana. Con questo posso solo aggiungere che la forza sia con voi per tutta l'estate e a risentirci a presto. Grazie Sara, ricordiamo l'appuntamento con Guerre Stellari su Italia 1 alle 21:10 di domenica sera, e sarà un agosto davvero all'insegna della grande saga ideata da George Lucas. E andiamo avanti parlando di home video. Come avete notato in questa puntata non abbiamo giocato con il nostro consueto DVD game, ma è una pausa estiva che abbiamo voluto dare al nostro gioco, che tornerà chiaramente a settembre più forte che mai, ma non possiamo esimerci ovviamente invece dal raccontarvi e dal proporvi novità in un video, cominciando a risolvere il gioco di settimana scorsa, una delle tracce che avevamo presentato. Shady, lascia che lei vada via, non ha più pace, lui parla della pace con me, è tutto vano, io l'amo, sarà importante, io l'amo. Un gesto umano, il mondo non fu umano con me. Si trattava del Fantasma dell'Opera, lo splendido, celebre musical di Andrew Lloyd Webber, che è diventato film una decina d'anni fa circa, qualcosa meno, e adesso arriva in una splendida edizione in Blu-ray. Molto bravi i nostri ascoltatori che lo hanno indovinato sin dalla prima traccia che avevamo seminato, ed era solo una traccia musicale. C'era ovviamente il famoso tema ricorrente con gli organi imperanti di questo film, però insomma molti lo hanno indovinato già lì. E tra gli altri si sono distinte due ascoltatrici, Teresa Cataldo di Ceranova, provincia di Pavia, e Federica Girardi di Vicenza, che sono state le più veloci e le più brave a rispondere esattamente il sabato e la domenica, e riceveranno appunto a casa il Blu-ray del Fantasma dell'Opera. Un film, un musical sul quale noi chiamiamo in causa il nostro Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio, allora raccontaci un pochino di questa edizione in Blu-ray del Fantasma dell'Opera. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, aveva già stupito tempo fa l'edizione DVD, ora il Blu-ray di 01 Distribution del Fantasma dell'Opera restituisce la pagante visione cinematografica, sicuramente priva di compromessi, eccellenza anche per l'audio con la doppia traccia DTS ad alta risoluzione. Per gli extra segnalo interviste a cast e troupe, immagini dietro le quinte presso gli storici Pinewood Studios inglesi, ma soprattutto il lavoro di doppiaggio per la versione italiana. E insomma, in un'epoca nella quale il musical sta riportandosi a livelli di popolarità eccezionali, è davvero una visione importante, un recupero importante per chi non lo avesse mai visto. Andiamo avanti con le recensioni invece delle uscite, delle novità in un video di questa settimana, visto che è periodo, epoca di vampiri, chi può negarlo con il successo adolescenziale della saga di Twilight, di cui è ancora imperante nei cinema italiani il terzo episodio, Eclipse, ma non solo, insomma i vampiri sono tornati prepotentemente alla ribalta cinematografica. Un esempio di questo trend è l'interessante Daybreakers, con un cast di tutto rispetto che va da Ethan Hawke a Willem Dafoe a Sam Neill. Ascoltiamo la clip. Tu non tocchi sangue umano, ma lavori per una compagnia che usa gli umani come mucche. Non dirmi come vivere la mia vita, fratello. E allora non parlare con quell'aria di superiorità. Vedi, Ed, la tua compagnia sta lavorando su una specie di sangue finto, lo sappiamo. Ma sappiamo anche che i loro soldi provengono dall'allevamento di umani. Dobbiamo esattamente da dove vengono i soldi. Io non do la caccia agli umani, quello è il tuo lavoro. Certo, io li trovo e tu li allevi. Una misteriosa malattia ha trasformato il pianeta Terra in un luogo popolato quasi esclusivamente da vampiri. Le società e gli stili di vita si sono adeguati, i pochi umani ridotti a cavie si nascondono. Edward Dalton è una creatura della notte che ha allo studio un sangue artificiale che alimenta i vampiri e scongiuri l'estinzione della razza umana. Ricerca che porterà vampiri umani a combattere per un incerto futuro. Fanta horror coinvolgente realizzato dai fratelli Spirig, giovani promesse del cinema australiano, già autori di The Undead. Da Mediafilm arriva il DVD, ma soprattutto il Blu-ray, da preferirsi anche per l'audio offerto con doppia traccia in italiano ad alta risoluzione, più l'originale inglese sempre ad alta risoluzione. Tantissimi gli extra, segnalo interviste a cast e troupe, 11 minuti di immagini inedite durante i Chuck. C'è un cortometraggio horror di Roberto De Feo e Vito Palumbo intitolato Ice Cream, e addirittura incluso nella confezione Blu-ray un CD con il singolo intitolato Amami o uccidimi di Davide Flauto, concorrente di Amici. E allora, questo per quanto riguarda Daybreakers. Noi adesso ci spostiamo in zona maestri, perché l'ultimo lavoro realizzato da Martin Scorsese è sicuramente un film tutto da vedere, con magari preferenze che sono state accordate o non accordate, ma insomma un'opera sicuramente molto complessa, un thriller psicologico di grande impatto e di grande scrittura. Tra l'altro il suo protagonista Leonardo DiCaprio lo vedremo presto in uno dei film più attesi della nuova stagione, che è Inception. Ascoltiamo la clip. Quei quadri sono piuttosto precisi. Rappresentano il tipo di pazienti che abbiamo qui. Una volta venivano incatenati e lasciati nella loro sporcizia. Venivano picchiati, come se frustarli a sangue servisse a scacciare la psicosi. Gli infilavamo delle viti nel cervello, li immergevamo nell'acqua gelata finché non perdevano conoscenza o annegavano. E adesso? Li curiamo. Cerchiamo di curarli, di guarirli. E se falliamo, almeno mettiamo un senso di benessere nella loro vita, di calma. Anni 50, in piena guerra fredda, il poliziotto Teddy Daniels e il suo nuovo partner raggiungono Shutter Island, isola che ospita un manicomio criminale dal quale una pluriomicida sarebbe riuscita a fuggire. Osteggiati da medici e guardie, i due indagano, ritrovandosi coinvolti in eventi oscuri, mentre Daniels sarà inevitabilmente costretto a confrontarsi con una drammatica e devastante verità. Scorsese di nuovo in coppia con DiCaprio fa scintille, anche se la sceneggiatura ha qualche punto debole. Da Medusa arriva l'edizione DVD e Blu-ray, entrambe di ottima qualità. Doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano-inglese per il Blu-ray. Come extra segnalo due interessanti approfondimenti sulla lavorazione. Tra l'altro il prodotto è disponibile sia DVD che Blu-ray anche in una versione per collezionisti che include la graphic novel ispirata al film. E allora grazie a Claudio Pofi, che non smarriremo nel corso di questa lunga estate, perché i consigli in un video non ci lasceranno. Appuntamento alla prossima settimana, Claudio. A presto, un saluto. E a questo punto chiudiamo la nostra puntata della Rosa Purpurea di questo fine settimana. Ci risentiamo fra 7 giorni. Andremo avanti con il racconto del meglio della stagione cinematografica 2009-2010. Avremo tutte le novità in un video e anche qualcosina che si muoverà come nuove uscite al cinema. Grazie per averci seguito. Appuntamento fra 7 giorni qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.